Dal Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Amminadab, eccetera. Fino ad arrivare a Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo. Il Vangelo di Matteo di oggi ci presenta, nella sua forma più lunga, la genealogia di Gesù. E questo Vangelo sembra un Vangelo piuttosto arido, infatti, come vedete, vi ho saltato diversi nomi. Sono passata subito, quasi subito, alla conclusione, cioè allo sposo di Maria, Giuseppe, per parlarvi appunto, per arrivare subito a Gesù. E come mai, questo Vangelo invece ha un significato molto più profondo, nonostante sembra insomma così annoiante, perché ci dice una cosa molto importante, ci dice che Gesù fa parte di una storia, fa parte di una nazione, fa parte di un popolo e ha anche lui i suoi antenati. E gli antenati sono importanti per la nostra vita perché sono tutti anelli di una catena. Tutti noi siamo collegati agli altri. Ed è vero che tante volte noi diciamo che i parenti sono un po' come le scarpe, più sono stretti e più fanno male. Però è vero anche che i parenti sono quelli che rendono possibile la nostra presenza, perché appunto siamo tutti concatenati e Gesù è nato da un popolo e in questo popolo c'è di tutto. Infatti, se noi guardiamo i personaggi che vengono citati in questa genealogia, abbiamo un po' di tutto, abbiamo gente buona, gente meno buona, gente nobile, gente meno nobile, gente giusta, gente meno giusta. E così anche nella nostra genealogia, nel nostro albero genealogico. E perché oggi leggiamo questo Vangelo, questa genealogia? Oggi è la festa della Natività di Maria, ma qui sembrerebbe essere la festa della Natività di Gesù, perché si arriva a Gesù e quindi si parla di Gesù. E perché questo? Perché il Vangelo di oggi ci vuole far capire che anche la genealogia nostra, di ogni persona, è collegata con la genealogia di Gesù, nel senso che siamo anche noi parte di questo popolo, parte del popolo di Dio. E quindi la genealogia di Gesù è la genealogia di Maria, ma è anche la genealogia nostra. Cioè, in questa genealogia di Gesù troviamo tutti gli elementi che troviamo in qualunque genealogia di qualunque persona, perché in ogni genealogia abbiamo una varietà di persone e quindi oggi che cosa siamo chiamati a fare? Siamo chiamati a dare lode al Signore per i nostri antenati, anche a pregare per loro, anche a pregare e ringraziare il Signore per averceli donati, perché se loro non ci fossero non ci saremmo nemmeno noi, e anche a pensare che in ogni famiglia c'è sempre qualcuno scelto da Dio per portare agli altri la parola, la sua parola. E come il popolo di Israele è stato scelto da Dio per far nascere il Messia, così, però, è stato scelto da Dio per far nascere il Messia, ma poi questo popolo è stato scelto per portare agli altri popoli la salvezza, così ciascuno di noi è scelto da Dio non soltanto per se stesso, ma per essere strumento di salvezza per gli altri. Allora, guardiamo un po' la nostra storia, la nostra vita. Anche noi abbiamo avuto la possibilità di incontrare il Signore, anche noi in un certo senso siamo stati scelti. Allora ringraziamo il Signore perché ci ha scelto, cioè ci ha dato la possibilità di venire a conoscenza della Sua parola, del Suo Vangelo e ricordiamoci che il Signore ci ha scelti non solo per noi stessi, ma perché vuole attraverso di noi anche scegliere tutto il resto della popolazione e della gente. E preghiamo per i nostri antenati e cerchiamo di essere un influsso buono per tutte le persone che ci vengono a conoscere, ma soprattutto per la nostra famiglia. Buona giornata.